Oia, no? Praticamente quando raggiunge il dip scende la corrente di placca e aumenta la potenza radiofrequenza, capito? Ascoltando stavo detto il dip quando le dip centrate, ascoltando stavo. Oh, c'è il dip qua, sto scherzando. C'è il dip qui quando vado, altri poi si metterà a ridere, no. No, è una macchina, è a voi professionale, no, no, no, no, tutto quanto particolarmente allineato, il finale di potenza, tutto, no, no, vai in AM appena. Allora, vediamo qui come il dip, o qua, fai così, com'è in AM? È il segnale 9, Santiago 9, sì, qua, la radio è ottima, Super 5, è bella, anche qua sei forte. È positivo. Positivo al 100. No, ma già modula bene dappertutto, capito? Modula bene dappertutto. E vabbè, sempre. Li va in banda però, che è meglio, In banda c'è più corpo, vai. Allora, vediamo un po'. Mi senti qui? Ah, parrotero, dai. Sì, ti ascolto. No, forse stava scaldando, si stava leggermente spostando un poco, però appena toccato già. Sicuramente sta un po' scaldando perché l'ho appena acceso poco fa questo apparato, proprio quando sentivo fischiare a te. L'ho appena acceso, hai capito? Va bene lo stesso. Per me ti puoi spostare come vuoi, tanto io rit qua, quindi t'aggancio come voglio e via, non ci sono problemi. Tutto lì. Poi bisogna che mi faccia due stecchette di vetronite e blocchi quell'induttore. Proprio, ho trovato il punto giusto, io glielo schiaffo sopra, faccio il pettine, le faccio e ce lo infilo in mezzo all'induttanza. Sì, l'unica è così. Oula. Ehi, va bene. 250, con neanche 50 watt di pilotaggio. È positivo, io non lo so perché non so neanche quanto sono solo di apparato. Allora, quando sono così dovrei avere intorno ai in AM 14 watt, 13 watt così, in AM. In banda laterale saranno 28-30 watt, può essere così, giusto? E una cosa del genere, i picchi sono di 7, una costante di 3-4, capito? No, già va bene, ma l'antenna poi l'avevi cambiata? Oh, io ho sempre la Mantova Turbo, già. Avevo messo la Mantova Turbo nuova, io già. Ah, ecco, ebbene, no, ma già rende la Mantova Turbo, io lo stesso Mantova 1 e sono, guarda, se c'è una cosa che non ho mai criticato è la Mantova 1, non la criticherò mai, e si sbaglia quando si critica la Mantova perché è una grande antenna, la 1, la 5, tutte, guarda, Mantova che sia, boh, è una cosa impressionante questa antenna, non, niente da eccepire, ripeto, ha una costanza nel tempo, regge al vento, tutto, ma belle veramente. È positivo, ho messa, allora, ha superato tutto l'inverno scorso, ha superato quella specie di come si chiama che ha fatto l'altra volta, che ha fatto un po' di danno, quel ciclone, come lo vuoi chiamare, che ha fatto tutto tempo fa, dai. E ha detto anche a quello lì. No, cioè, ho messa in estate, un anno e mezzo ce l'ho, no, forse un anno a questo, no, un anno e mezzo ce l'ho questa antenna. È positivo, e già vanno bene, ma la sorte già. Vanno bene, io vedo che. E tiene in potenza, come si tiene. Pompa che è un gioiellino, capito? No, non mi piace la costanza che ha, ma ho fatto lì. Un'antenna, poi è il cortocircuito su, no? Quindi statiche non te ne arrivano, e poi ti evita anche problemi di spurie armoniche, in buona parte, vabbè che qui ok, tutto quanto ben allineato, però comunque un'antenna Grand Plain spara di tutto, capito? Ma cosa ti posso dire, perché ho provato gli apparati qua, ne ho provato diverse già, ripeto, no, è perfetta perché, anzi, me la... Quando l'abbiamo montata me l'ha piazzata con Claudio Spalviero, me l'ha montata lui, l'abbiamo messa assieme, poi c'era, mi ricordo che c'è qualche altro, c'era pure a darci una mano. E niente, come stazionaria siamo a postissimo, ma proprio di lusso, dai, 1 e 1, 1 e 2, non va oltre questo 1 e 2, dai. Come stazionarie siamo dove ci spostiamo di canale, non ce ne sono. È azzeccata bene, forse anche la lunghezza del cavo, che poi l'ho messo quello, come detto, 213, quello grosso, si chiama così, RG213, mi pare che si chiami così, no? Il 213. No, ma già di per sé comunque la mantova esce con una sua preaccordatura, no? E basta, e va bene, le tarano solitamente con uno, la monti su e basta, e il cavo è quella, è un discorso che dovrei ripetere di nuovo da zero e stasera non voi. non iniziare 44 metri, 45, 46, per carità, lascia perdere, è andata così, boh, ancora sono uno, l'antenna va benissimo, tutto lì. Positivo, comunque dovrei avere sui 33 metri di cavo, già, intorno ai 33 metri di cavo, perché ho comprato 40 metri e poi se no taglio poi accorcio, e ne ho tagliato, dico la verità, 8-7 metri, poi ci ho pensato, mannaggia, potremmo andare a misurare giusto e fare 33 metri, però mi sono andato bene lo stesso, dai. Ne ho tagliato quei 8 metri, mi sembra, ne ho tagliato del cavo. La misura che dite voi del cavo, no? È una cosa che sì, comunque deve andare con una regola, ma non è quella la regola 33, 44, 52. Io ti dimostro che accordo un'antenna come dico io, tu metti 44 e non funziona. Ho spiegato già l'altra volta che il cavo, no? Il cavo che usi per l'antenna, si comporta come fosse un accordatore, in pratica su se stesso ha delle capacità distribuite, perché ti dicono, se tu prendi un dipia, no? E leggi picofarad per metro, lo sai cosa significa lui? No, negativo, però ti posso dire una cosa, già quando li abbiamo i 40 metri giusti lunghi, li abbiamo provato, c'erano stazionarie. Con quei 40 metri abbiamo tutto spazio dentro che era troppo lungo e voleva tagliato, poi li abbiamo tagliati e abbiamo lasciato un po' di lunghezza, diciamo così, e abbiamo preso il PLL, saldato, messo ed era una cannonata, già, una cannonata, non so che cosa sia quello che mi stai dicendo, già. Ma è questo che devi sapere, l'hai detto tu adesso ma sotto un'altra forma. Allora, il picofarad per metro è la capacità parassita che presenta il cavo lungo tutto il suo percorso, essendo coassiale il centro con la calza, presenta un accoppiamento capacitivo e quindi picofarad per metro. Una capacità distribuita, praticamente si comportano come un piccolo accordatore queste capacità. Ora, se tu metti il cavo alla misura che vuoi, accordi l'antenna, è lo stesso, giusto? Sì, sì, dovrebbe essere giusto lo stesso. Però non lo so, so che il cavo deve essere, poi non lo so, qualcuno mi ha detto, non è qualcuno radiotecnico, cosa del genere, mi ha detto che fa impianti, non ha importanza, che deve superare la lunghezza dell'antenna, questo non so se è vero, il cavo deve superare almeno la lunghezza dell'antenna, questo non so se è vero. Digli a quel somaro che te l'ha detto che gli regalo due orecchie di canguro, che sono quelle di australiano, e se le mette davanti, così uno ce l'ha di canguro, l'altro di somaro. Ma quando mai si dicono queste puttanate? Allora uno che monta l'antenna, mettiamo che abbia una mansarda, cazzo, gli servono 3 metri di cavo, per forza mettere 14. Se mi hai fatto il discorso tu e non l'hai capito, allora guarda, te lo rifaccio, Vulca. Tu mi hai detto che quando hai tagliato il cavo l'antenna è andata in accordo, giusto? Positivo, forse perché facevamo fare una curva dentro il coso quando l'abbiamo messa, no? a largo, prova. Poi io da solito, adesso io nel detto lo tagliamo a questa lunghezza che basta. Abbiamo provato ed era perfetto, non lo so. Però allora, Giancarlo non è una persona stupida, quello che Oristano mi ha detto, no, dice, non ha importanza, tu dal tetto porta quello che ti serve, non ha importanza, mi ha detto, quello, tanto non fai curve, controcurve, queste piegature, dice dove sta, dice tu lo stendi, lo fai scendere quanto basta, arrivare dove ti serve, e va bene, mi ha detto Giancarlo. Infatti, quello è una persona un po' intelligente, non molto, ma comunque un po' intelligente. Anche perché le curve nel cavo 213 non le puoi fare più di tanto, quindi lo puoi anche curvare, tanto non curva, giusto? A meno che non lo tronchi. No, abbiamo fatto due cerchi grandi noi, quando qua, capito? Facendo questi cerchi grandi, perché non c'avevo spazio, prima di tagliarla, stava stazionale, sicuramente avevi cerchi anche fatti così, due cerchi grandi, hai capito? Oh già, perché non ci fanno a stenderlo per bene, capito? Ma va bene, anche quello lo poteva fare. Allora, l'ordine delle cose, te lo rispiego. Tu hai tagliato il cavo, vediamo un po', ed è andata in accordo, perfetto. Quindi questo significa che il cavo ha un'influenza, ti ho spiegato che ha della capacità parassita, però non c'entra niente, io ne posso mettere 3, 6, 12, 12,21,7, ne posso mettere quello che mi pare mi piace, poi salgo su e accordo l'antenna, ok? E io lo so come si accorda, gli altri non lo so, ma io lo so come si accorda l'antenna. Quindi io ho messo calate di 40, di 30, di 20, di 15, ho lavorato sui punti trasmettitori della NATO per un anno, quindi non iniziamo a dirmi bagianate, perché l'uno che sento così lo manda a fanculo, ho un caratteraccio sotto quell'aspetto, però ti posso garantire, io giustamente, tu sei una persona che non è del mestiere, e ti spiego che se io prendo un'antenna e la accordo con quei metri di cavo e poi aggiungo cavo, è chiaro che il rosso aumenta. Queste capacità parassita presenti nel cavo influenzano l'accordo per causa di questa capacità distribuita. In pratica è come che tu metti un accordatore senza l'induttanza centrale, solo i condensatori variabili. Adesso immagina, l'accordatore l'hai mai visto tu? Positivo. No, però io qua sono andato bene, ho già, perché abbiamo poi Claudio non è una persona stupida, ma l'ha montata lui l'antenna, e poi ci sono tutti i punti di riferimento segnati, ecco, e siamo per l'impostazione, sono a posto qua, è messa, è perfetta, sono di questo sono a posto, sono contentissimo. E ti dico un'altra cosa, io in camion, questo me l'aveva detto Giancarlo, quello di Terralba, che è un radioamatore, un radiotecnico e via dicendo, mi aveva detto, quando io dovevo piazzare la scarpetta in camion, diciamo la scarpetta, e siccome io già avevo la scarpetta sotto la brandina, e dovevo fare tutto il giro, arrivare sopra, sai dove abbiamo la radio, lo abbiamo sopra in alto, e ci voleva un parecchio cavo, chi mi diceva che dovevo andare a 45, devi seguire sempre così. Io cosa ho fatto? Ho preso un bel po' di 10 metri di cavo, l'ho preso, l'ho passato, ho fatto il PLL e l'ho passato, l'ho tutto quanto girato intorno, incanalato nella cabina, e sono arrivato a circa 8 metri di cavo, spezzone di lineare, ascoltami bene già, minimo sono 8 metri, mi sono arrivato all'apparato e ho tagliato il tanto giusto che mi bastava, ho tagliato, ho messo il PLL, guarda, non ce n'è altro, perfetto come quello lì. Quindi vedi che non c'entra niente, vabbè, per combinazione tu sei capitato, poi se te ne è capitato magari mezzo metro in più iniziava appena di rosso, ma non c'entra niente, il rosso va compensato col pigre con l'ingresso del lineare, capisci che con l'azione volano del pigre stesso compensa queste perdite, ok? E io questo lo faccio nei finali di potenza che realizzo e vendo, lo faccio nei ricetrasmettitori, lo faccio in tutti gli apparati, anche gli apparati di elettrodepilazione che sino a poco tempo fa esistevano a radiofrequenza, no? E che quindi andavano accordati con uno spezzone di cavo che aveva un piccolo antennino che era il puntale, e l'accordavo lo stesso, e accordavo ingresso e uscita perché c'era pilota e finale, e quindi tutto questo va compensato. La stupidaggine di dire 44, 44,8, 44,9 è una grande cazzata, ma grande però, perché le capacità parassita comunque, anche se metti 44,5, 44,8, sono presenti in più o in meno settagli, quindi arrivato a questo punto, perché si accorda l'antenna? L'antenna si accorda perché esistono questi scompensi e quindi la linea va compensata e va compensata accordandola, punto, per avere il massimo della resa, e quindi il circuito risonante deve essere in quella frequenza perfettamente accordato, ma non perfettamente, non esiste perfetto, giustamente accordato. No, sono pienamente d'accordo, è così. No, io per esempio in camion sono perfetto, ho provato diverse antenne e va perfetto, poi ho fatto anche la prova, scendere nel baracchino a provare con lo spezzone perché 45 non mi basta, ho provato con 90 centimetri, con lo spezzone a 90, non mi cambia una virgola, nulla, non ti cambia, è sempre perfetto come quello che ho piazzato, quello lungo, ho toccato qualcosa, dice no, ti squaglia, scalda, io ho provato a toccare, ho sentito sempre freddo questo cavo. Guardi, adesso ce l'ho già 4 anni ce l'ho, della verità, 4 anni in cabina, eppure sono ogni tanto li controllo le stazionali e sono a posto, è sempre perfetto quel cavo lì, e gli ho messo quello normale, l'RG18, così si chiama. 58 è bravo, 58, e quello lì normale gli ho messo. Me l'aveva preso Giancarlo e c'ha questa cosa, a parte il coso c'è anche una specie di carta stagnola, capito? Che il coso è rame, l'attrice che c'ha la coppa, e anche questa cosa in carta stagnola, capito già? Sì, però quello è un cavo latti, quello è un cavo per datti, lo sai? Non so, molta ce n'è di calza. Eia, cioè come venivano neanche qua, io dico, mi è capitato altri a me di questi casi qua, hai capito? È sempre identico all'altro, solo in più c'è la carta stagnola, è identico perché c'è la calza, e più c'è questa carta stagnola e più c'è la protezione, ed è identico a tutti gli altri, e non mi è capitato per altre cose di questo tipo di cavo così, capito? Dice che anche più ti dà più schermatura, non lo so, più o meno radiofrequenza, così si chiama, mi pare una cosa del genere. Sì, sì, a meno perdite, sì, quello va bene anche per i dati. Va bene anche per i dati, sì, sono d'accordo, sì, beh, conosco perché li uso per lo scambio dati delle vecchie reti Ethernet, quello si usava molto, il 58, e via. Io ho rifattrice, ho tutto, realizzo impianti anche di videocamere con il 59 però, che è schermato così a tripla schermatura, doppia e tripla anche in molti casi, e via. Va bene, comunque non ti preoccupare, tu quando devi chiarire un quesito tecnico, teorico, o devi chiarire qualcosa, me lo chiedi, ti rispondo, non c'è problema, ma qualsiasi cosa, sia sull'alta frequenza che sulla bassa frequenza, per componentistica, vari tipi di circuitazione, trattamento a livello di bassa frequenza degli apparati, sulla modulazione, nei modulatori, come vuoi, ti chiarisco tutto. Te lo do per scontato perché, ripeto, qualche volta è capitato anche avere videoconferenza con persone di un certo livello e ne parliamo spesso perché questi sono luminari a Oxford, gente che oramai insomma è nata, ci sono anche ragazzi che qualche volta chiedono consiglio e insegnano e automaticamente insegnano, ma per via appunto del fatto che ho lavorato molto sui ponti conosco anche abbastanza bene il campo dei cavi, tutto lì. Gappa, no, io già ti dico sinceramente che io non ne capisco nulla di elettronica, io sono buono a smontare, a strasciarlo, ma a rimetterlo in sesto no, no, io no, proprio a riparare, a fare, no, non ci sono buono, mi so fare aumentarle appena di fatte, riesco, perché l'ho visto fare, dai, me l'hanno spiegato, però altro non so fare, no, non cambio un finale perché tanto faccio casino, brucio piste, brucio tutto, no, non sono un bravo saldatore, su cose superficiali così, sì, faccio saldature, qualche cosa così, ma cambiare un PLL, così si chiama, quello, tutti quei piedi lì, no, assolutamente faccio danno di brutto io. E non ne tocco neanche, capito? Lo do mio a Giancarlo, a quello di Terralba, e cambia tutto, faccio fare i lavori a lui e no. Non ne tocco mai anche tante fesserie, a volte, proprio se crea una fesseria, un filo, una cosa, allora sì. Se no non tocco, no, io non so regolare nulla, dico la verità, proprio no, a parte che non so neanche dove mettere le mani. Sì, no, vabbè, ma no, ti sto dicendo. Ti ho solo detto se ti serve qualche quesito, no? A posto di ascoltare i somari che circolano nella radio o su pilaggini, perché poi uno come le sente le ripete, capito? E basta. Me lo dici e ti dico le cose così come devono essere fatte, per mille motivi, perché poi, no? Le barzellette che sono venute fuori alla radio sono troppe. Hanno saturato le persone di stupidaggini, devo dire lui che ce n'è di fessi in giro, almeno tu sei una persona che ti diverti con la radio, ma ce ne sono tanti che purtroppo vantano delle qualità che non hanno, tutto lì. E questo mi dispiace per chi c'entra sotto, perché chi entra sotto viene bisestato da questi soggetti, tutto lì. Va bene, comunque, non è molto importante. Non è molto importante lui, e via. È un po' ola, si sta sempre rendendo a tappeto, non c'è problema. Bello impulsivo, vediamo un po' il picco. Ecco qua, ottimo, ottimo, va bene, va bene. Va bene, va bene, va bene. E tutte queste belle cose qui. E si tira a campare, avanti lui. Gappa, no, io ho questa radio, non è una radio, è un baracchino, dico la verità, è un baracchino e ce l'ho qua, mi vado per la stazione e mi va benissimo perché posso andare, non posso andare molto lontano, ma in queste bande qua posso entrare e niente, è un baracchino normale come è nato, non è stato mai toccato, capito, questa è una la 87, per Midra, capito, c'ha i suoi 25 watt nato dalla casa, quando è nato così c'ho la scatola, c'ho tutto e me lo tengo qua in stazione, capito, in modo sempre farlo sempre con questo, capito, qua, e posso andare ai canali sopra, vedi, bande laterali, e... normale, normale, dove arrivo arrivo già, perché lineare non ne ho, dico la verità, ce l'avevo un valvolare qua e l'ho regalato perché non è ad opera, non è attacco, io non vado sempre liscio, liscio, non mi interessa di arrivare lontano, infatti io dove arrivo a Itri, arrivo dove arrivo, se puoi arrivare oltre non mi interessa, capito già, se mi qua in propagazione sì, però non è, non è ad opera a casa di lineare di niente io. È positiva, beh, è una scelta, no? No, il mio è permanentemente inserito, ma per migliorare ulteriormente l'emissione, anche perché è più pulito con questo e ci sono mille fattori. Esce molto molto bene, non ha problemi niente. Quindi lo uso, anche perché, ripeto, io non monto mai porcherie, quindi sono apparati fatti in modo professionale, sono apparati che ho creato proprio per un uso continuativo, è tutta roba americana, quindi non si discute, capito, sulla qualità del prodotto e via, a parte il progetto, a parte il sistema, e lo ottengo per quel motivo lì, in effetti è come che non ci sia, è molto trasparente all'emissione, no? Lui si fa solo sentire, ma non ma non disintegra l'emissione, capito? Un giorno me l'ho portato, ma adesso me l'ho montato in camion questo e e poi a un certo punto sono entrato in banda laterale, proprio in questo canale qua, e c'era Gigi, Coso, Fabio Albino, e Coso, il figlio da come si chiama, da Marruppio, e io ero lì a Campera, in camion ce l'avevo questo, e ti dico, l'ho provato, c'era anche con l'Eniano, l'ho provato, e usciva bene lo stesso con l'antenna che c'ho in camion, questo qua, in banda laterale, andava lo stesso, lo sai già. Perché non deve andare? L'antenna ti restituisce quello che gli dai, senza ombra di dubbio, compreso, già è sincera l'antenna, quando è ben accordata ovviamente. Tutto lì, carissimo Luigi, non ci sutis problemas, ricettamento li vogliono buoni, per funzionare bene, devono essere fatti in modo decente e ciccia. I finali poi, va bene, i finali tracciatorizzanti tanto lo sappiamo, abbiamo sempre quelle marche, Bremi, ZG, Remitalia, giriamo lì con i tracciatorizzati, a patto che uno non se lo faccia da sé, se no, o che li faccia lui, appunto. Se no le marche sono quelle, tanto. È positivo, io ho il finale di come si chiama, c'ho il Motorola, io di come si chiama, ne ho anche quattro qua, a portata di mano. Questi sono del 750 della ZG, che sono Motorola comunque, ne ho quattro, già quattro, no, la tonna, quattro sono, sì, quattro sono, ce li ho qua portate in mano, dovevamo cambiarle, poi non abbiamo cambiate, era perfetto, non c'era quel danno lì. Anche in quello che c'ho io sono sempre a 24 finali, però Motorola, Motorola, è sempre ZG. Sì, è positivo. Ok. Sì, io di solito monto Motorola, è anche qualcosa come CGS, non, ma è uguale, sono uguali, se li sai allineare bene. Gappa, io vedi, c'ho un linearetto, però costavo troppo e non l'ho... Me l'aveva lasciato Pinocchetto della Vetta, Pinocchetto Moro, un linearetto di quelli a 12, di quelli piccoli per vettura, dai, quelli per vettura. E c'ha due finali da 12 di Motorola. Motorola sono le 400... cos'è? 400... numero 753, non mi ricordo cos'era, sì, MRF 543, non mi ricordo. MRF 422 o 455? 455, due finali di quelli ci vogliono, però costano, mi sembra, 35 euro l'uno e cosa costerà 100 euro il linearetto, neanche pure, 80 euro dovrà costare, chi te lo fa fare a mettere i finali nuovi? Positivo, potete fare, in effetti le spese sono quelle lì, non c'è ombra di dubbio, ma io non ne faccio uso personale di trasistorizzate, ne potrei avere a casa 2 kW, però non li sopporto. Non mi piacciono perché hanno un'emissione troppo metallica e quindi con me non tirano d'accordo. E via, sono delle bidonate trasistorizzate, tutto lì. Ce n'è qualcuno a MOSFET che lavora bene, guardi, io anche dei piccoli della Zettaggi, ce n'è qualcuno piccolo, ma lavorano bene quelli a MOSFET. È positivo, questo qua è, te lo dico pure, Mirella, vabbè, sono il 455 finale, allora qua c'è scritto così, guarda, allora, per gli apparati non si può, allora, almeno 5 watt, 15, leggevo dove si tinocchi. Allora, questo è un 300, è 250 per modelli a 300, LA 300 questo qua, questo è un 300 ed è della, se vedete cosa c'è scritto qua, Wiener, una cosa del genere. Wiener. K è di quella lì, quella marca lì. Qua, giocato che so. Giocattoli, fabbriche che fanno giocattolini, se ne presentano molti anche per vendere, capire così, però poi gli RM comunque sono molto superiori, io ho vista la circuitazione, devo dire che sono fatti veramente bene. Ma questo le ha detto la vettura, mio, fa anche SSB, pure c'è segnato qua, vedi, anche SSB fa, si scatti, si posizioni già. Sì, no, io sto parlando proprio di linea di vettura, i buoni sono in Italia, anche i ZG così qualcuno, i grossi già sono bellini, però è troppa compressione, io sento Pinuccio quando attacca di su, aiuto, è troppo compresso quel lineare, mamma mia, guarda, allucinante, è sempre così, no, se lo tiri molto si sente la compressione. Sì, ma quello non è un lineare da casa, lui ce l'ha a casa, ci ha messo due batterie di camion, carica batterie, quello è un lineare da camion, come ce l'ho io in camion, e va bene in camion, lo collega perché ha 24 quel lineare lì, funziona a 24 quello che c'ha meno 100. Sempre se stanno operando quello che sto dicendo io, ce l'aveva in camion, perché di solito attacca quello lì, ma non va bene, a casa non va bene, fateglielo dentro, infatti lì si deve mettere fuori. Lui solo che ha il piano di sopra e non le può mettere, se ti scoppiano queste batterie con questo lineare sotto le gambe, queste batterie ti fa saltare guai, gatto l'acido. Sì, io già gliel'ho detto che a parte quello però è troppo compresso, no, ma se lo sovrappiloti appena non va più, quello massimo 5-6 watt, poi inizia a rompere i coglioni quel tipo di lineare, c'è da fare, capito? Tu se vuoi una buona emissione devi utilizzare questi che sono fatti proprio, almeno quelli che faccio io sono fatti per più tipi di apparati, si fanno sentire così, anche perché tu prendi ad esempio un 131, comunque già inizia a essere meglio di quelle porcherie, l'importante è che sia valvole, appunto. Io l'ho dato, però so cosa stia facendo Natalino, l'ho regalato a Natalino, ma insomma me lo dai, lo posso modificare, non so cosa voleva fare, gli serviva togliere, era due valvolare, due valvole era, tre cose, cioè aveva tre posizioni. Ed è timido, hai lavorato per il vecchiotto pure, però funziona bene, funziona, l'aveva visto Albino, l'aveva andato a provare una volta, anche meglio anche non lo dia in questo, non lo dia in questo lineare, anche funziona una meraviglia, sui 200 watt mi sembra, noi dava molto, sui 200 watt, però funzionava benissimo. Ma non so, voleva fare qualcosa natalino, non so che cosa voleva modificare, o gli servivano di toglierne qualcosa per fare qualche che lavoro, quale licenza ne stava a fare, non lo so, gli rettini, tanti non ne adoperava e allora vabbè. E mi dispiace far romperlo, togliere, smontarlo, perché lui non so cosa voleva fare, voleva togliere per fare non so che cosa. Ok, vabbè, sono ti appenti da. Vabbè, oggi ti saluto che devo uscire, che sono stato chiamato qui. E via, magari se ti sento più tardi, tanto rientrerò tra un po', se ne vuole, quindi ci sentiremo magari appresso. Ho messo trattenuto perché c'eri tu, mia, che no, me ne stavo chiudendo, me ne stavo andando, sono entrato per lei, che c'eri tu e abbiamo fatto questa chiacchierata, mi ha fatto piacere. No, non stavo chiudendo già, no, non ce ne c'è perché domani mattina... perché io cosa ce l'ho giù, insomma le vado su a casa, mi vado vicino a mia moglie, ci facciamo compagnia, ci guardiamo un po' di televisione, un po' di sport, qualcosa, finale, che domani mattina vado a stare molto presto, sono a Cagliari e non accendo più nulla, ho finito per stasera, ho modulato abbastanza, dai io ti saluto già, dai, mi ha fatto piacere della chiacchierata e di tutto, ciao Gianni. Ciao carissimo, ci sentiamo. Salutami la consorte lì, buon proseguimento, buon tutto, alle prossime, ciao.